insieme alla UIL abbiamo deciso di promuovere questa piazza di fronte al Senato, che poi è diventata il lancio di una giornata di mobilitazione, per cui davanti alle prefetture di tutto il paese, di tutta la regione Emilia-Romagna, CGIL e UIL, insieme a realtà dei movimenti della società civile, dell'antifascismo, della cultura dei diritti, ci mobilitiamo perché il DDL sicurezza è una legge sbagliata e da bloccare. Dobbiamo fermare l'approvazione di questo disegno di legge, perché è un condensato di propaganda e populismo istituzionale che fa male al paese, è palesemente contro la Costituzione, è un attacco al movimento dei lavoratori e alle sue pratiche. Quali sono gli aspetti più critici di questo disegno di legge? Intanto è il filo nero che tiene insieme tutta una serie di provvedimenti, dal decreto Caivano, il decreto Rave, la legge 50 impropriamente chiamata decreto Cutro. Tutti insieme questi provvedimenti hanno questa idea di populismo penale e di trasformare comportamenti che nascono da difficoltà sociali, marginalità, difficoltà, in reati e con l'inasprimento delle pene. La parte particolarmente grave, ovviamente, per un sindacato che organizza i lavoratori, che vede nel conflitto il motore che anima la dialettica della storia, è la repressione delle iniziative nelle manifestazioni, anche se queste manifestazioni sono pacifiche e non violente. Cioè, una norma anti-Gandhi, pensare che è offensiva nei confronti di tutti quei lavoratori e lavoratrici che nel nostro territorio, a Bologna, hanno difeso le imprese, le loro aziende e hanno trasformato chiusure in realtà in occasioni di rilancio delle attività lavorative. Pensiamo agli operai della Saga Coffee, pensiamo agli operai della Perla, pensiamo ai lavoratori della Marelli. Se non ci fosse stato un conflitto duro, durissimo, ma pacifico e determinato, noi avremmo perso pezzi interi di sistema industriale. E poi i diritti si conquistano con le lotte. Nel 2008 il contratto dei metalmeccanici fu conquistato quando le mobilitazioni nelle strade, nelle piazze, alla stazione di Bologna, sotto la neve, diventarono un problema di tutte e tutti. Ieri eravamo a scioperare in aeroporto, rischia di abbattersi una clava penale sui lavoratori e le lavoratrici che si mobilitano. E poi ci sono provvedimenti indegni di un paese civile, come quello contro i migranti, che si troveranno costretti a ricorrere alla criminalità organizzata non solo per arrivare in Italia, ma anche per prendere una scheda SIM. E poi contro le mamme in carcere, contro azioni pacifiche che eventualmente detenuti che manifestino contro le condizioni descritte da tutti, indegne del nostro sistema carcerario, agiscano pacificamente. Insomma, una repressione di ogni forma di dissenso e un'idea di politica punitiva che, mentre aumentano i problemi, non fanno che far sprofondare questo paese in luoghi che avremmo voluto non vedere più. Sta diventando una questione di tutte e tutti.